50 domande su Gesù. Come si spiega la resurrezione di Gesù? La resurrezione di Cristo è un avvenimento reale che ebbe manifestazioni storicamente certe. Gli apostoli hanno dato testimonianza di quello che avevano visto e udito. Verso l'anno 57 San Paolo scrive ai Corinzi: «Vi ho infatti trasmesso in primo luogo quello che io stesso ho ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu sepolto, che risuscitò il terzo giorno e che apparve a Cefa e dopo ai dodici». Quando affrontiamo questo evento per cercare la verità su ciò che accadde, può sorgere una domanda. Qual è la fonte dell'affermazione che Cristo è risuscitato? È una manipolazione della realtà che ha avuto un'eco straordinaria nella storia umana? Oppure un fatto vero che continua a risultarci così sorprendente e inspiegabile ai nostri giorni, come lo fu allora per i suoi discepoli? A queste domande è possibile trovare una risposta ragionevole a partire dalla conoscenza di ciò che quegli uomini credevano accadesse dopo la morte, al fine di valutare se l'idea di una resurrezione come quella che raccontavano rientrasse nei loro schemi mentali. Nel mondo greco ci sono riferimenti a una vita dopo la morte, però con alcune caratteristiche singolari. L'Ade, un motivo ricorrente già nei poemi omerici, è la dimora dei morti, un mondo di ombre che ricorda vagamente quello dei viventi. Però Omero non pensò mai che nella realtà fosse possibile che un morto ritornasse vivo dall'Ade su questa terra. Platone, da una prospettiva diversa, aveva formulato la teoria della reincarnazione, ma non ritenne possibile che una persona potesse rivivere nel suo corpo una volta morta. Insomma, sebbene talora si parlava di una vita dopo la morte, mai era venuta in mente a qualcuno l'idea della resurrezione come noi la intendiamo, cioè di un ritorno alla vita in corpo e anima. Nel giudaismo la situazione è affine a quella del mondo greco, sia pure in parte. Lo Sheol di cui parlano l'Antico Testamento e altri testi giudaici antichi non è molto diverso dall'Ade omerica. Qui la gente è come addormentata. Però, a differenza della concezione greca, ci sono porte aperte alla speranza. Il Signore è l'unico Dio, tanto dei vivi come dei morti, ed ha potere tanto sul mondo in cui viviamo come sullo Sheol. L'evento della resurrezione è considerato possibile, anche se non da parte di tutti. Infatti, i farisei credevano nella resurrezione dei corpi, al contrario dei sadducei che non la ammettevano. Nel mondo giudaico si attendeva l'arrivo del Messia, ma non gli si connetteva la possibilità che potesse risorgere dopo la morte. Per qualsiasi giudeo contemporaneo di Gesù, si trattava di due questioni teologiche che si muovevano in ambiti completamente diversi. Riguardo al Messia, si confidava nel fatto che avrebbe sconfitto i nemici di Dio, avrebbe ripristinato in tutto il suo splendore e la sua purezza il culto del Tempio, avrebbe stabilito il dominio del Signore sul mondo, però mai si pensava che sarebbe risuscitato dopo la sua morte. Era qualcosa che non passava normalmente nell'immaginazione di un giudeo pio e istruito. Nel giorno di Pentecoste, secondo quanto riferiscono gli Atti degli Apostoli, Pietro afferma che Dio lo ha risuscitato rompendo i vincoli della morte, concludendo: «Sappia con sicurezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, questo Gesù, che voi avete crocifisso». La spiegazione di tali affermazioni è che gli apostoli avevano contemplato qualcosa che mai avrebbero immaginato e che pertanto si credevano in dovere di testimoniare, malgrado le loro stesse perplessità e il dileggio al quale supponevano che sarebbero andati incontro nel sostenere una cosa siffatta.